Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Come abbiamo già detto, nonostante i rimproveri della coscienza e i saggi consigli di Athos, l'amore di D'Artagnan per Milady cresceva d'ora in ora. Perciò si presentava puntualmente ogni giorno da lei a farle una corte che l'avventuroso guascone era convinto avrebbe presto o tardi dato immancabilmente i suoi frutti. Una sera che se ne arrivava col naso per aria, leggero come chi aspetti una pioggia d'oro, incontrò sotto il portone la cameriera. Ma questa volta la graziosa Ketty non si accontentò di sorridergli passando, gli prese dolcemente la mano. «Vorrei proprio dirvi due parole, signor cavaliere», balbettò la giovane. «Parla, bambina, parla», disse D'Artagnan. «Ti ascolto. Qui è impossibile. Quel che ho da dirvi è troppo lungo e soprattutto troppo segreto». Ketty, che non aveva lasciato la mano di D'Artagnan, lo trascinò su per una buia scaletta a chiocciola e, dopo avergli fatto salire una quindicina di gradini, aprì una porta. «Entrate, signor cavaliere», disse. «Qui saremo soli e potremo discorrere». «E questa che camera è, bella bambina?» chiese D'Artagnan. «È la mia, signor cavaliere. Comunica con quella della padrona attraverso quella porta. Ma state tranquillo, non potrà sentire ciò che diremo, non si corica mai prima di mezzanotte». D'Artagnan volse un'occhiata in giro. La cameretta, graziosa, rivelava buon gusto e lindore, ma suo malgrado gli occhi si posarono sulla porta che, a detta di Ketty, immetteva nella camera di Milady. La ragazza intuì ciò che avveniva nell'animo del giovanotto e sospirò. «L'amate proprio tanto, la mia padrona, signor cavaliere», disse, «più di quanto non possa dire. Ne sono pazzo». Ketty sospirò una seconda volta. «Signore», disse, «è un gran peccato». «Cosa diavolo ci vedi di tanto spiacevole?» chiese D'Artagnan. «Signore», aggiunse Ketty, «che la mia padrona non vi ama affatto». «Ah», disse D'Artagnan, «ti ha forse incaricato di dirmelo?» «Oh no, signore, sono io che per l'interesse che ho per voi ho deciso di avvertirvene». «Grazie, mia buona Ketty, ma solo dell'intenzione, perché la confidenza, lo ammetterai, non è affatto piacevole. Forse non credete a quel che vi ho detto? Confesso che fino a quando non ti degnerai di darmi qualche prova di ciò che affermi, che ne dite di questa?» Ketty trasse dal seno un bigliettino. «Per me?» disse D'Artagnan afferrando impaziente la lettera. «No, per un altro. Per un altro? Guardate l'indirizzo. Il Conte de Vardes». Il ricordo della scena di Saint-Germain si affacciò subito alla mente del presuntuoso guascone. Con gesto rapido come il pensiero, stracciò la busta nonostante il grido che Ketty lanciò vedendo ciò che gli stava per fare, o meglio faceva. «Oh, mio Dio! Signor cavaliere, che fate?» «Io? Nulla», rispose D'Artagnan e lesse. «Non avete risposto al mio primo biglietto. Siete malato, oppure avete dimenticato con quali occhi mi guardaste al ballo di Madame de Guise? Non lasciate sfuggire l'occasione che vi offro». D'Artagnan impallidì. Era ferito nell'amor proprio. «Povero caro Monsieur D'Artagnan», disse Ketty con voce compassionevole e stringendo di nuovo la mano del giovane. «Mi compiangi, mia buona piccina?» disse D'Artagnan. «Oh sì, di tutto cuore, perché lo so io cos'è l'amore». «Tu sai cos'è l'amore?» disse D'Artagnan guardandola per la prima volta con una certa attenzione. Ahimè, sì. Allora, invece di compiangermi, dovresti mettermi in grado di vendicarmi della tua padrona. E quale genere di vendetta vorreste trarne? Vorrei trionfare di lei, soppiantare il mio rivale. In questo non vi aiuterò mai, signor cavaliere, affermò Ketty con veemenza. E perché? Chiese D'Artagnan. Per due ragioni. Quali? La prima è che la mia padrona non vi amerà mai. Che ne sai? L'avete offesa mortalmente. Io? In che cosa posso averla offesa? Io? Che da quando la conosco vivo ai suoi piedi come uno schiavo. Parla, te ne prego. Non confesserei mai questo tranne all'uomo che sapesse leggermi fino in fondo all'anima. D'Artagnan guardò Ketty per la seconda volta. La ragazza aveva una freschezza e una bellezza che molte duchesse avrebbero comperato al prezzo delle loro corone. Ketty, egli disse, leggerò fino in fondo alla tua anima quando vorrai. E le diede un bacio sotto il quale la poverina arrossì come una ciliegia. Oh no, esclamò Ketty, voi non mi amate. Amate la mia padrona, me l'avete detto orora. Solo allora D'Artagnan ricordò le occhiate languide di Ketty, gli incontri in anticamera, per le scale, nel corridoio, le volte che lo aveva sfiorato con la mano incontrandolo, i sospiri soffocati. Tutto preso dal desiderio di piacere alla grandama, aveva disdegnato la cameriera. Chi caccia l'aquila non si preoccupa del passerotto. Ma questa volta il nostro guascone intuì immediatamente tutto il vantaggio che poteva trarre dall'amore che Ketty gli aveva confessato in modo tanto ingenuo o sfrontato. Intercettamento delle lettere indirizzate al conte de Vard, connivenze nella casa stessa di Milady, ingresso a tutte le ore nella camera di Ketty attigua a quella della padrona. «Ebbene, cara Ketty», disse D'Artagnan, «vuoi che ti dia una prova dell'amore di cui dubiti?» «Di quale amore?» chiese Ketty. «Di quello che sono prontissimo a sentire per te. E quale ne è la prova? Vuoi che stasera passi con te il tempo che di solito passo con la tua padrona?» «Oh, sì!» rispose Ketty, battendo le mani. Molto volentieri. Allora, cara piccina, disse D'Artagnan installandosi in una poltrona, vieni qui e ti dirò che sei la più graziosa servetta che io abbia mai veduta. E glielo ripeté tante volte, e così bene che la poverina, la quale non chiedeva di meglio che crederlo, lo credette. Scoccò la mezzanotte e quasi subito si sentì squillare il campanello nella camera di Milady. «Gran Dio!» esclamò Ketty. «La padrona mi chiama! Andate, andate presto!» D'Artagnan si alzò, prese il cappello come se avesse l'intenzione di obbedire. Poi, spalancando la porta di un grande armadio, invece di aprire quella della scala, si rannicchiò in mezzo agli abiti e alle vestaglie di Milady. D'Artagnan poté sentire per un po' Milady che rimbrottava la cameriera. Infine ella si calmò e la conversazione cadde su di lui mentre Ketty preparava la padrona per la notte. «Stasera», disse Milady, «non ho veduto il nostro guascone». «Come, signora?» disse Ketty. «Non è venuto? Che sia volubile prima ancora d'essere felice?» «Oh no, sarà stato trattenuto da Monsieur de Treville o da Monsieur de Cessar. Io la so lunga, Ketty. Quell'uomo è nelle mie mani. Credevo che la signora lo amasse. Io amarlo? Lo odio. Uno sciocco che tiene nelle sue mani la vita di Lord de Winter e non lo ammazza. E mi fa perdere 300.000 livre di rendita». D'Artagnan rabbrividì fino al midollo nell'udire la soave creatura rimproverargli con quella voce stridula che ella faticava tanto a nascondere nella conversazione di non aver ucciso un uomo che egli aveva veduto colmarla di gentilezze. «E mi sarei già vendicata di lui», continuò Milady, «se il cardinale, non so perché, non mi avesse raccomandato di risparmiarlo». «Già, ma la signora non ha risparmiato la donnina che lui amava. La merciaia di Rue des Fossoyeux? Ma lui non ne ha già dimenticato l'esistenza? Bella vendetta davvero!» Un sudore freddo colava sulla fronte di D'Artagnan. Quella donna era dunque un mostro. D'Artagnan, essendo uno che non perdeva facilmente la testa, pur corteggiando Milady, aveva architettato un piccolo piano. Trovò Ketty alla porta e, come la sera precedente, salì da lei per avere notizie. La servetta era stata aspramente rimproverata e accusata di negligenza. Milady non riusciva a spiegarsi il silenzio del conte de Vardes e le aveva ordinato di entrare da lei alle 9 del mattino a prendere una terza lettera. D'Artagnan fece promettere a Ketty che gliel'avrebbe portata l'indomani mattina. La ragazza promise tutto ciò che l'amante volle. Era come impazzita. Alle 11 vide arrivare Ketty con il biglietto di Milady. D'Artagnan aprì il biglietto e lesse quanto segue. «È la terza volta che vi scrivo per dirvi che vi amo. Badate che non vi scriva una quarta per dirvi che vi detesto. Se siete pentito del modo con cui avete agito con me, la ragazza che vi consegnerà il biglietto vi dirà in che modo un gentiluomo può ottenere il perdono». Mentre leggeva, D'Artagnan arrossì e impallidì parecchie volte. «Oh, l'amate sempre!» disse Ketty, che neppure per un attimo aveva distolto gli occhi dal viso del giovane. «No, Ketty, ti inganni. Non l'amo più, ma voglio vendicarmi del suo disprezzo». D'Artagnan prese una penna e scrisse: «Signora, finora avevo dubitato che proprio a me fossero stati indirizzati i primi 2 biglietti, tanto mi ritenevo indegno di un simile onore. Per giunta stavo così male che in ogni caso avrei esitato a rispondervi. Ma oggi devo pur credere alla vostra eccessiva bontà, poiché non solo la vostra lettera, ma anche la vostra cameriera mi afferma che ho la fortuna di essere amato da voi. Non occorre che ella mi dica in quale modo un gentiluomo può ottenere il perdono. Verrò dunque a chiedervi il mio stasera alle 11. Tardare di un giorno sarebbe adesso per me offendervi ancora una volta, colui che avete reso il più felice degli uomini, conte de Vardes». Il piano di D'Artagnan era semplicissimo: dalla stanza di Ketty penetrare in quella della padrona, approfittare del primo momento di sorpresa, di vergogna, di terrore, per trionfare di lei. Forse avrebbe anche fatto fiasco, ma bisognava pure lasciare qualche probabilità al caso. Di lì a 8 giorni si apriva la campagna. A D'Artagnan mancava il tempo di filare il perfetto amore. «Prendi», disse D'Artagnan, consegnando a Ketty il biglietto sigillato. «Consegna questa lettera a Milady. È la risposta di Monsieur de Vardes». La povera Ketty divenne pallida come la morte. Immaginava il contenuto del biglietto. «Ascoltami, cara bambina», le disse D'Artagnan. «Tu capisci che tutto questo deve finire in un modo o nell'altro. Milady può scoprire che tu hai consegnato il primo biglietto al mio domestico invece che a quello del conte, che sono stato io ad aprire gli altri che avrebbero dovuto essere aperti da Monsieur de Vardes. Milady in questo caso ti scaccia e, la conosci, non è donna da limitare a questo la propria vendetta». «Ahimè», disse Ketty, «per chi mi sono esposta a tutto questo? Per me, lo so, mia bella, disse il giovane. Infatti te ne sono gratissimo, te lo giuro. Ma insomma, chiese Ketty, che c'è nel biglietto? Te lo dirà Milady. Ah, esclamò Ketty, voi non mi amate. A questo rimprovero c'è una risposta che inganna sempre le donne. D'Artagnan rispose in modo che Ketty perseverasse nella più pericolosa delle illusioni. Da quando i quattro amici avevano cominciato a darsi da fare per procurarsi l'equipaggiamento, erano cessate le riunioni regolari tra loro. Avevano però stabilito di incontrarsi una volta alla settimana verso l'una in casa di Athos, dato che quest'ultimo, fedele a giuramento fatto, non oltrepassava la soglia della porta. Il giorno in cui Ketty era andata a cercare D'Artagnan in casa sua era giorno di riunione. Non appena Ketty fu uscita, il giovanotto si avviò in Rue Férou. Trovò Athos e Aramis che stavano filosofeggiando. Aramis sentiva qualche velleità di tornare alla tonaca. Athos, come sua abitudine, né lo dissuadeva né lo incoraggiava. Athos era del parere che ognuno dovesse decidere secondo il proprio libero arbitrio. Non dava mai consigli se non richiesto. Bisognava anzi chiederglieli due volte. In generale, diceva Athos, si domandano consigli soltanto per non seguirli. Oppure, se si seguono, è per avere qualcuno da rimproverare per averli dati. Porthos arrivò un momento dopo D'Artagnan. I quattro amici erano quindi riuniti. I quattro visi manifestavano quattro diversi sentimenti. La tranquillità, quello di Porthos. La speranza, quello di D'Artagnan. L'inquietudine, quello di Aramis. L'indifferenza, quello di Athos. Dopo un attimo di conversazione in cui Porthos lasciò capire che una persona altolocata si era incaricata di trarlo dagli impicci, entrò Mousqueton. Veniva a pregare Porthos di passare a casa, dove, diceva con aria molto depressa, urgeva la sua presenza. «Si tratta del mio equipaggiamento?» chiese Porthos. «Sì e no», rispose Mousqueton. «Ma insomma, che vuoi dire?» «Venite, signore». Porthos si alzò, salutò gli amici e seguì Mousqueton. Dopo un momento comparve sulla soglia Bazin. «Che volete, amico mio?» disse Aramis con quella soavità di linguaggio che si notava in lui ogni volta che i suoi pensieri lo riportavano alla chiesa. «Un uomo aspetta il signore a casa», rispose Bazin. «Un uomo? Che uomo?» «Un mendicante. Fategli l'elemosina, Bazin, e ditegli di pregare per un povero peccatore. Quel mendicante vuole parlarvi ad ogni costo e afferma che sarete lietissimo di vederlo. Non ha detto nulla di speciale per me?» «Sì. Se Monsieur Aramis ha detto esita a ricevermi, annunziategli che vengo da Tours.» «Da Tours!» esclamò Aramis. «Signori, mille scuse, ma certo costui mi porta le notizie che aspettavo.» E alzatosi immediatamente, si allontanò in gran fretta. Athos e D'Artagnan rimasero soli. «Credo che quei due abbiano risolto il loro problema. Che ne pensate, D'Artagnan?» «So che Porthos era sulla buona strada», rispose D'Artagnan. «Quanto ad Aramis, a dire la verità, non ne sono mai stato seriamente preoccupato.» Athos disse: «Mi diceva Monsieur de Tréville, che ieri mi fece l'onore di venirmi a trovare, che voi, D'Artagnan, bazzicate inglesi sospetti, protetti dal cardinale. Sarebbe a dire che faccio visita a un inglese, quella di cui vi ho parlato. Ah, sì, la bionda, a proposito della quale vi ho dato alcuni consigli che naturalmente vi siete ben guardato dal seguire. Caro Athos, ve ne ho spiegato le ragioni», disse D'Artagnan. «Ho acquisito la certezza che quella donna ha avuto parte nel rapimento di Madame Bonacieux.» «Sì, e capisco. Per ritrovare una donna ne corteggiate un'altra. È la via più lunga»,